Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Così, appena arrivati, aprì la serranda e prese una scatola con all'interno delle specie di tavole di legno dipinte. Tirandole fuori dalle scatole capii meglio di cosa si trattava. Erano delle spade di legno, degli scudi, sempre di legno, e se non ricordo male c'erano anche degli elmi, ma questi ultimi non li prendemmo. Ciao, sono Stefano, ho 46 anni, vivo a Shanghai da 4 anni, sono direttore finanziario di un'azienda con stabilimenti produttivi in Cina. Ho un figlio di 19 anni che si chiama Tommaso e ti arriverà moltissimo ad ascoltare questa storia e la vostra trasmissione. Avrò avuto all'incirca 12-13 anni, non mi ricordo più in che categoria giocavo, comunque erano o gli esordienti o i giovanissimi, e c'era nella squadra del mio paese, che era la AS Romentinese, chiaramente uno più forte di tutti gli altri, ma molto più forte di tutti gli altri. È un ragazzo che poi giocò nelle giovanili di una grande squadra di Serie A, però era anche un po' spocchioso, per cui quando noi facevamo riscaldamento e lui si stava allenando facendo palleggi che noi non sapevamo fare da solo, arrivava la palla da lui, scusa ci dai la palla, boom, e la tirava lontano. Una volta, scusa ci dai la palla, boom, lontano. Terza volta, scusa ci dai la palla, boom, fuori dalla rete. Io faccio una cosa che non ho mai più fatto nella mia vita. Mi sono avvicinato e sapete quando ci sono quei gesti che sono più forti di voi? Cioè che arrivano da un punto vostro nascosto che non sapete dove sia e quasi addirittura non sapete di avere. Insomma, lo butto per terra e gli salto addosso tenendogli la testa, sai, la testa così, adesso! Ci hanno diviso in 10 secondi ovviamente, quindi non è successo niente. Però quella reazione lì, quel gesto lì, non solo mi ha sorpreso, mi ha stupito, ma un pochettino anche mi ha spaventato. Buongiorno a tutti, sono le 16:10, oggi straordinariamente in diretta da Roma, la splendida sede romana, totalmente presidiata dalla squadra di Mix24, che quando entri, ragazzi, sono lì testa china, sembra che lavorano solo loro perché hanno un sacco di lavoro da fare. Dicevamo, in diretta da Roma, oggi sempre voi siete qui, grazie a Valerio che è di là dal vetro, Paolino che invece è a Milano. Noi facciamo la solita cosa, oggi continuiamo a raccontare delle storie, ne raccontiamo una al giorno, raccontiamo un episodio della vita di quella persona che ha voluto condividerlo con noi e la facciamo diventare la puntata di un programma. Continuate a inviare delle storie se avete voglia di partecipare. Voi siete qui, @radio24.it. La storia di oggi, la storia di Stefano, parla più o meno di quell'episodio che vi ho raccontato in apertura. Cioè, vi è capitato nella vostra vita probabilmente, e se non vi è capitato forse non ve ne siete accorti, di avere una reazione, di compiere un gesto o un atto che vi ha totalmente spiazzato. Vi ha spiazzato perché era troppo forte rispetto a quello che eravate voi stessi abituati, perché aveva una direzione inaspettata verso magari una persona che non avreste mai immaginato sarebbe stata oggetto di quella reazione, o anche per intensità, perché era troppo più forte rispetto a quanto voi stessi eravate abituati. Insomma, qualcosa che non pensavate fosse parte di voi e vi ha sconvolto. Oggi raccontiamo quella storia lì. Se avete da condividere delle vostre storie, 349-238-6666, se avete un cellulare tra le mani, se avete invece un computer o uno smartphone, meglio, voi siete qui Radio 24 al profilo Facebook, voi siete qui R24 al profilo Twitter, altrimenti il mio profilo Twitter è semplicemente Matteo Caccia. Ecco, adesso immaginate di essere dei bambini, di avere 8 anni, di essere con un vostro amico in un posto dove lui vi porta a vedere qualcosa che dovete scoprire e di stare per compiere un gesto che nemmeno voi vi aspettate. Arrivai a casa del mio amico Marco nel pomeriggio con mia mamma. Marco era più grande di me di quasi 4 anni. Ci eravamo conosciuti grazie ai nostri genitori, che erano diventati talmente amici che avevano deciso di trascorrere la vigilia di Natale insieme già da un paio d'anni. Io consideravo Marco più che un amico, un fratello maggiore, il fratello maggiore che non ho mai avuto. Marco era bravo in tutto, a scuola, nello sport, e aveva sempre qualcosa di nuovo da raccontarmi o qualche nuovo gioco da farmi vedere o provare. Quel pomeriggio mi portò giù nel suo garage perché appunto voleva farmi provare un nuovo gioco. Così, appena arrivati, aprì la serranda e prese una scatola con all'interno delle specie di tavole di legno dipinte. Tirandole fuori capii meglio di cosa si trattava. Erano delle spade di legno, degli scudi sempre di legno, e se non ricordo male c'erano anche degli elmi, ma questi ultimi non li prendemmo. Io e Marco ci siamo conosciuti da bambini perché i nostri genitori erano amici. Ho passato moltissimo tempo con lui, l'ho considerato per molto tempo un fratello maggiore, mi ha insegnato molte cose e ancora adesso siamo in contatto. Marco era un grande appassionato di supereroi come Thor, Capitan America e altri che invece a me non interessavano per niente. Mi chiese di prendere una spada ed uno scudo e ci mettemmo di fronte uno all'altro in una improbabile posizione da combattimento. Prima ancora che Marco mi dicesse come dovevamo usarli, preso forse dalla paura di essere aggredito per primo o da non so che cosa mi passasse per la testa, alzai la mia spada di legno e gli sferrai un colpo fortissimo in pieno viso. Lui lasciò cadere le sue armi e cadde sulle ginocchia in lacrime per il dolore. Non gli avevo fatto per fortuna nulla di grave, ma sanguinava dal naso e al momento sembrò una ferita mortale. Il garage, con le armi sul pavimento, il pianto di Marco e la mia faccia terrorizzata, sembravano comporre la scena di una tragedia. Quello che seguì dopo fu la sua corsa di sopra da sua mamma per farsi consolare e medicare, ed il mio seguirlo a distanza in uno stato di trance. Inconsapevole di quello che avevo fatto e allo stesso tempo tremendamente preoccupato per il mio amico ferito. Una volta passato lo spavento di tutti, ovviamente fui rimproverato sia da mia mamma che dalla zia Lucia, così chiamavo la mamma di Marco, e ovviamente anche da Marco, e lui, un po' per rabbia nei miei confronti, ma soprattutto per nascondere il suo orgoglio ferito di dodicenne che l'aveva, per così dire, prese da un bambino di 8 anni, non volle più parlarmi né giocare con me per tutto il pomeriggio. In realtà non ci siamo mai specificati perché la cosa è stata apparentemente dimenticata. Non ne abbiamo neanche mai più parlato. Io spero che anche lui se la ricordi. Io invece sicuramente, visto la storia che gli ho raccontato, ne serbo un carissimo ricordo. Siamo ancora amici, Marco ed io, anche se viviamo lontani. Io in Cina e lui in Romagna. Ci sentiamo un paio di volte all'anno e ricordiamo sempre con piacere i begli anni della nostra infanzia e adolescenza passati insieme, durante le vacanze invernali ed estive, sulle montagne del Friuli. Io non ho mai più compiuto un atto di violenza come quello, scriteriato e improvviso, e senza nessuna provocazione. Eppure il ricordo di quel gesto, così selvaggio e contrario alla mia natura quieta e appacificante, mi dà, ancora oggi, il coraggio per affrontare situazioni difficili o stressanti e la forza e l'equilibrio necessari per non subire l'aggressività di alcune persone. E questo perché dentro di me io so che in qualsiasi momento potrei sferrare un colpo come quello. E grazie a questo pensiero infantile, assurdo, non ho paura di niente e di nessuno. Con Marco non ne abbiamo più parlato, ma sono sicuro che anche lui se lo ricorda. Mi piace pensare che a lui, sempre così sicuro e determinato, quel colpo sia invece servito a renderlo un po' più umile e preparato a subire le piccole e grandi inaspettate delusioni della sua vita. Mi piace ancora di più pensare che un colpo di spada sferrato per gioco in quel lontano pomeriggio di quasi 40 anni fa abbia in qualche modo fortificato entrambi i nostri caratteri e cementato la nostra amicizia. I know you want what's best for us, I know it has to come at a price. I also know the trouble that you find when you stop being nice. You look around you one day, what you once knew didn't stay. Let's come home before the girls are grown. Let's come home. Fino a una certa età, almeno per me, le giornate erano scandite da ritmi ben precisi. C'era la scuola, il pranzo, i compiti, lo sport e gli amici. Da adolescenti il sabato sera si usciva e la domenica si dormiva fino a tardi. La scuola si divideva secondo le vacanze: Ponte dei Morti, l'Immacolata, Natale, Pasqua e vacanze estive. Il tempo, insomma, seguiva regole chiare e decifrabili. È quando si diventa adulti che le cose si complicano. Il tempo accelera e si dilata senza che ci possiamo fare nulla. Ma da ragazzino non lo sapevo e per me il giorno più importante dell'anno era il giorno del mio compleanno. Solo che il mio compleanno cadeva a fine luglio e quasi tutti gli amici erano in vacanza. Mi capitava quasi sempre di festeggiare o con i miei e basta o con qualche amico raccattato in montagna. Per questo un anno, avrò avuto 11 anni mi pare, avevo organizzato una festa di compleanno in comune col Federico Urbani. Lui era un compagno di classe delle medie. Andava bene a scuola, senza essere un secchione, e giocava bene a calcio. Insomma, ero contento di festeggiare il compleanno con lui. Faceva gli anni a giugno, proprio alla fine della scuola, quindi ci sarebbero stati tutti i miei amici. L'avevamo detto alle nostre mamme, anche loro erano d'accordo. Avremmo fatto la festa nel giardino di casa di Federico. Quindi io l'avevo travolto coi preparativi, del resto per me era la prima festa coi miei amici di scuola, per lui invece era una delle tante. Un pomeriggio lo invito a casa per fare la lista degli invitati. Quando arriva dopo pranzo mi trova che sto stendendo un rotolo di carta da pacco sul pavimento. Sto facendo un disegno da appendere in classe per invitare tutti. E lui mi dice: aspetta, aspetta un secondo, non possiamo appendere il cartellone perché non è che possiamo invitare tutti. Insomma, secondo lui non possiamo invitare il Massimiliano e l'Alan. Un Massimiliano e un Alan o Alan ci sono in tutte le classi. Sono quelli che non vengono mai coinvolti. Quelli che si scelgono per ultimi quando si fanno le squadre a calcio. Quelli che non vengono invitati alle feste di compleanno. Federico non mi dice che non li vuole invitare. Non ha il coraggio. Dice che non può. Sai, se vengono anche loro non ci stiamo, sostiene. Si giustifica dicendo che a casa sua c'è spazio per 16 bambini, ma non per 18. E non ci pensa più. E quindi sarai anche Federico Urbani, però quella risposta lì non mi piace. Non mi piace per Massimiliano e Alan, ma soprattutto non mi piace che risolva la questione inventandosi una bugia così clamorosa e che pretenda che io me la beva senza pensarci. E poi ho fatto lo striscione da appendere in classe. Me lo vedo già, lì sulla parete dei giubbotti in bella vista. È il mio primo compleanno con tutti gli amici. Se a casa tua non ci stiamo, allora lo facciamo a casa mia, vorrei dirgli. Invece no, me ne sto zitto. Però mi sale il nervoso. Invento che mi sono dimenticato, ma devo accompagnare mia mamma da qualche parte, quindi lui mi spiace, ma se ne deve andare. Lui scherzando mi risponde: beh, se non mi vuoi a casa tua, basta dirlo. Senti chi parla, dico fra me e me, e mi sale ancora di più la rabbia. Ecco, quell'episodio ha segnato un punto della mia infanzia, proprio come per Stefano è stato il colpo di spada. Il giorno dopo sono andato a scuola in anticipo e ho appeso il cartellone. Ho reagito così, distinto. Quando è arrivato il Fede, prima che mi dicesse qualsiasi cosa, gli ho sorriso e ho parlato d'altro. Lui non ha più sollevato la questione, e io nemmeno. Sono venuti tutti, e non abbiamo avuto problemi di spazio. The pillar and the beam. Like two pieces of the gallows. We share a common dream. Destroy what will harm other men. È in bianco e nero la fotografia che ci ha mandato Stefano, ma comunque racconta moltissimo della situazione e probabilmente di conseguenza anche un po' di lui. Andate a vederla sul nostro sito, alla pagina di Voi Siete Qui, come al solito, radio24.it. È al timone di una barca, che immagino sia una barca a vela, si riconosce perché ha il tipico tendalino arrotolato sopra la sua testa, lui ha un cappellino, una maglietta a maniche corte, degli occhiali da sole, guarda verso l'orizzonte e ci racconta non solo che tipo è Stefano, che è banalmente uno che va anche in barca, ma anche di dove si trova in questo momento preciso Stefano. Perché se non sbaglio Stefano adesso è in Thailandia. Pronto Stefano? Sì, ciao, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto bene. Sono in Thailandia. Sei in Thailandia e un avviso agli ascoltatori, questo ritardino che sentite è un pochettino dovuto al fatto che sta dall'altra parte del mondo Stefano. Stefano, raccontaci innanzitutto dove sei in Thailandia e che cosa ci fai? Allora, in questo momento sono a Onang, che è una bellissima località vicino a Krabi, nel Golfo di Andaman, in Thailandia, e ci siamo fermati questa sera perché siamo in giro con una barca a vela, con degli amici. Perché tu, Stefano, vivi e lavori a Shanghai, Hong Kong, giusto? Sì, io vivo e lavoro tra Shanghai ed Hong Kong, maggior parte del tempo a Shanghai, e in questo periodo sono le vacanze del Capodanno cinese, quindi mi sono preso una vacanza. Che cosa fai esattamente da quelle parti? Io sono direttore finanziario di un'azienda italiana che è con degli stabilimenti produttivi in Cina e ci vivo da circa 4 anni. Prima anche altri 3 anni a Hong Kong con un'altra azienda, quindi sono dal 2006 che sono in Asia. Senti, quel poco che ho sentito dire da persone che hanno vissuto in quelle zone, italiani, dicono che si tenda a ricreare una sorta di comunità molto italiana, di frequentare quella, di uscire poco e di vivere poco la città e la popolazione. È così? È vero? Ti capita di vivere in questo modo? Sì, mi ritrovo abbastanza in questa situazione. Purtroppo non è facilissimo integrarsi in Asia, perché comunque le culture sono molto diverse. Noi abbiamo anche poco tempo perché lavoriamo, io lavoro per un'azienda italiana e ho sempre lavorato per aziende italiane, quindi comunque l'ambiente che di lavoro poi si ripropone magari anche al di fuori del lavoro, quindi certo. È un po' difficile, la lingua è anche un ostacolo, ecco, quindi però ci vivi bene, Stefano. Integrarci, però non è facilissimo. Però ci vivi bene lì, Stefano. Sì, ormai ci vivo bene, sono tanti anni e sarà difficile che rientri in Europa. Mi piacerebbe un giorno, però non lo so, cioè, qui c'ho ancora tante cose da vedere, ancora tante cose da fare, da esplorare. Andiamo invece là dove... Il mare. Andiamo invece, scusami, se no, perché non ho tantissimo tempo, ma andiamo là quando avevi 8 anni e quando fai una cosa che tu stesso dici era una cosa che non mi apparteneva, e dai sto colpo di spada in testa a Marco, no? Prima ancora che lui ti dica come funziona, e questo sanguinando se ne va di là. La cosa che mi diverte è che tu sei attonito pure tu, cioè sei sorpreso dal fatto che tu riesca a fare una roba del genere, ma la roba più interessante secondo me è quando tu dici: il ricordo di quel gesto selvaggio e contrario alla mia natura, che è quiete e pacificante, mi dà ancora oggi il coraggio per affrontare situazioni difficili o stressanti e la forza e l'equilibrio necessari per non subire l'aggressività delle persone. Come a dire, guarda Stefano, che in realtà dentro di te c'è anche quella roba là, giusto? È questa la lettura? Sì, questa è un po' la lettura. È un ricordo molto, molto caro che io ritengo abbia anche un po' formato il mio carattere. Sì, perché è una forza che comunque io mi sento in tutti i giorni, anche sul lavoro, nella vita quotidiana, qualcosa che ho dentro che non esprimo sempre, perché comunque è un carattere molto riservato e molto, penso, equilibrato, però sento di avere questa forza. Quella volta lì probabilmente perché ero bambino l'ho si è espresso per un attimo, però non è successo molto spesso. Infatti ci hai raccontato questo episodio e non altri. Come ci ascolti da lì? Come ci ascolti da Shanghai, Hong Kong? Vi ascolto con i podcast, infatti è bellissimo perché io me li scarico, io ascolto diverse trasmissioni, ma la vostra è una delle mie preferite, mi scarico i podcast e poi me li sento quando normalmente vuoi. Prima di addormentarmi. Ed è perfetta la puntata di una ventina di minuti, mi piace moltissimo. che ti accompagna tempo che vi ascolto. Che ti accompagna nel sonno. L'ultima cosa per farci morire d'invidia, Stefano, mi dici che cosa vedi davanti a te in questo momento a Daonang nel Golfo delle Andamane? Allora, in questo momento non vedo tantissimo perché è sera, qui sono le 10 di sera, però sento il rumore del mare. Sono in un ristorante con un mio caro amico, siamo proprio un tavolo con la spiaggia a pochi metri e sento il rumore del mare, vedo la luce della barca dove ci sono degli altri amici che sono rimasti in barca e ci aspettano, quindi... Che cosa hai ordinato? Abbiamo finito di mangiare, quindi meglio di così è difficile. Che cosa hai mangiato, Stefano? Ho mangiato una buonissima grigliata di pesce. Grazie ancora per tutto, per la storia e per l'immagine che ci hai regalato. Continua, buona veleggiata in Thailandia. Ciao Stefano e grazie. Grazie, ciao Matteo. Ciao, ciao, ciao, ciao. 349-238-6666, ma anche il profilo Twitter. Io tra l'altro, quando uno mi dice che ci ascolta prima di addormentarsi, lo prendo come un complimento, giusto, Vale? Valerio, dai, se uno mi dice, no, nel senso che è uno che vuole farsi accompagnare dolcemente nel sonno. Io la voglio vivere così. Sul profilo Twitter di Voi Siete Qui, Stefania scrive: spezzai un dito al mio fidanzato con le mie mani. Avevo la partita di basket, andammo all'ospedale, ma non l'avevo fatto apposta. E poi ancora Chiara: prima media ho picchiato una compagna di classe indifesa, timida e sola. Mi vergogno ancora, ma da lì cambia completamente. E me lo auguro, Chiara. E poi volevo chiudere con una sorta di tentativo estremo. È arrivato un messaggio da Maria da Bosco Reale di Napoli che ha scritto: parola grande, parola piccola, parola grande, parola piccola. È incomprensibile. 12 anni, in classe con me c'è un bullo ripetente che prendeva tutti di mira. In quel periodo si divertiva a darmi fastidio. Ad un certo punto non sopportai più, presi la sua mano al volo e gli diedi un morso. Non mi diede più fastidio e lo presero in giro tutti perché era stato picchiato da una ragazza. Ce l'ho fatta, ho finito a leggere l'SMS più complicato della storia. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, tutta la splendida redazione di Roma, ovviamente in primis Valerio Rocchetti, Tiziano Bonini di là a Milano, Margherita Ina, Mauro Pescio di qua dal vetro e Paolino Corleoni che ha mandato in onda il tutto. Voi continuate a raccontare storie fa bene a voi e fa bene agli altri. Se avete voglia, inviatecele. Voi siete qui, @radio24.it. Altrimenti, semplicemente, scaricateli in podcast o ascoltate in diretta. Grazie ancora, grazie soprattutto a Stefano. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Sono Massimo e ho 55 anni e sono torinese. La storia di domani è la mia e racconta della sorpresa del giorno in cui ho scoperto che mia mamma di 78 anni aveva emozioni ed entusiasmi di una ragazzina. Questa è la mia storia ed io sono qui.